L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati. Vedo i pali della luce, papà. Quindi è arrivata pure qua l'elettricità, eh? Pensa che bello appena arriva la televisione. Sono venuto a rilassarmi, lo sai, la vita in città è frenetica. Hai perso il lavoro pure tu e sei tornato in paese. Parenti. E se fosse il lavoro a tornare in paese, come riscrivereste tutto questo? Ben ritrovati da Anna Migliorati. Lockdown, chiusure non sono solo sinonimo di fermo. Ci sono, l'abbiamo scoperto, molte attività che si possono spostare in remoto. E allora, con le città spesso percepite come meno sicure, l'altra faccia della medaglia dei centri storici o direzionali vuoti è il ritorno nei paesi, nei borghi, dove questa volta ci si può in alcuni casi portare dietro il lavoro. Durante il lockdown lo smart working ha coinvolto 6 milioni e mezzo di lavoratori, un terzo dei lavoratori dipendenti italiani, 10 volte rispetto al 2019. Al termine dell'emergenza si stima che quelli che proseguiranno a lavorare almeno in parte da remoto saranno oltre 5 milioni. E dove vivranno? C'è chi si immagina un controesodo e come sempre la fantasia non manca. Case regalate al prezzo simbolico di un euro, sgravi sugli affitti, vista mare o montagna. E così dalla Toscana alla Puglia, passando per il Molise, sono diversi i comuni che si stanno adoperando per sfruttare l'onda dello smart working di chi vuole lasciare la città. Il sindaco di Otranto ha promosso per il mese di ottobre la campagna Smart Working Frontemare. Più a nord è andato oltre il comune di Santa Fiore sul Monte Amiata, in provincia di Grosseto, dove la svolta è stato l'arrivo, non dell'elettricità ovviamente, ma sì invece della banda larga. Allora con noi il sindaco Federico Balocchi, benvenuto. Sì, esattamente come dice lei, abbiamo ipotizzato che siccome a Santa Fiore è arrivata la banda ultralarga, che è possibile oggi fare cose da noi, da Santa Fiore, dal nostro piccolo paese in montagna, che fino a ieri non erano possibili. Quindi fino a ieri era per chi faceva certi tipi di lavoro era obbligatorio stare in città. Oggi possono, invece è possibile venire a stare da noi e quindi noi ci offriamo alle persone per essere una destinazione appunto non solo di turismo ma di vita. Mettiamo in vetrina quello che possiamo offrire, quindi le abitazioni, quindi i nostri servizi, quindi servizi per esempio all'infanzia, che da noi abbiamo il nido comunale che costa circa 200 euro al mese, teniamo bambini fino a dopo le 6 di sera, quindi sono servizi importanti per le famiglie, però per incentivare le persone a valutare questa alternativa abbiamo messo un incentivo che è il 50% dell'affitto e questo lo facciamo fino a 6 mesi in modo che le famiglie possano venire a Santa Fiora e per 6 mesi il comune le accompagna in questa loro scelta dando un incentivo. Quindi per 6 mesi metà dell'affitto lo pagate voi, ma diciamolo, lo potete fare lì da voi perché è arrivata la svolta digitale, non è per tutti. Questo è il titolo sulle, le sono chiamate le aree bianche, queste diciamo dei nostri paesi di montagna, le aree interne italiane sono chiamate le aree bianche, per cui quelle che non avrebbero dal punto di vista commerciale molta appetitività. Diciamo che noi abbiamo avuto la fortuna di essere fra i primi ad essere allacciati, fortuna perché ovviamente oggi siamo in condizione di offrire oggi questo servizio. Se ci avessero allacciato fra 2 o 3 anni ovviamente sarebbe stato diverso. Abbiamo avuto la fortuna di essere tra i primi. Avete già avuto delle richieste e così per avere un'idea quanti siete oggi a Santa Fiora? Ci hanno già chiamato in diverse famiglie, alcuni persone che lavorano negli uffici e che hanno magari bambini che possono venire qua e rianimare questo nostro paese. Noi siamo 2600 persone più o meno, veramente una prospettiva molto interessante per borghi come Santa Fiora, perché noi siamo già ora bandiera arancione, cioè uno dei borghi più belli d'Italia, però è una prospettiva più turistica. Invece in questa maniera diciamo è possibile non venire qualche giorno, qualche settimana a noi, ma stare da noi, per godersi una vita di tutto diversa. Grazie. D'altra parte i dati di ANCI, l'Associazione dei Comuni, raccontano che negli ultimi 40 anni sono stati 2000 i piccoli centri che hanno perso l'80% della popolazione. Comuni periferici, rurali, montani, che coprono però oltre la metà della superficie italiana e diciamolo pure, ne sono anche una delle caratteristiche i nostri tanti campanili. 2 milioni di case sono inutilizzate, basterebbe recuperarne anche solo il 15% per accogliere 300.000 abitanti. Stimate voi quanti sono. L'insieme di queste esternalità positive, come vengono chiamate, i cosiddetti servizi ecosistemici, valgono almeno 93 miliardi l'anno, quasi il 5% del PIL. E allora, davvero l'altra faccia della medaglia potrebbe essere il ritorno ai piccoli comuni? La domanda la giro a Marco Brusone, presidente dell'Associazione Comuni Montani. Grazie, buongiorno. Certo, dovrebbero essere almeno raggiunti dalla rete, visto che spesso non è così. Di cosa parliamo? Abbiamo fatto una mappatura lo scorso anno come UNCEM, indicando che in 1200 comuni o parti di comuni italiani su 7000 vi sono difficoltà nell'avere buona connessione. Sono in realtà molti di più, un'analisi scientifica oggi non esiste, ma credo che possiamo dire che sono almeno il doppio. Se questi borghi tornassero a vivere, cosa guadagneremmo? UNCEM sostiene da tempo che nei territori montani e rurali del paese, il 54% dell'Italia, sta un grande potenziale di innovazione. La legge sui piccoli comuni del 2017, che in parte è stata attuata, in parte è ancora da attuare, può generare investimenti che andrebbero calcolati in almeno 1 miliardo di euro l'anno. Abbiamo di fronte il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, quindi i fondi del Recovery Fund, la nuova programmazione europea, di fondi e obiettivi si tengono insieme. Di quante persone stiamo parlando? Cioè, quanti coinvolgerebbe quello che qualcuno ha chiamato il controesodo dalle città ai piccoli borghi? In Italia abbiamo 7000 comuni e almeno 13000 borghi, quindi pezzi di comuni sui quali è possibile fare degli investimenti. A oggi aumentare la popolazione nei territori rurali e montani è possibile. Posso immaginare che a partire dagli immobili vuoti, che sono diversi milioni in questi territori, si possa incrementare almeno di qualche decina di migliaia. Sembrano numeri bassi, ma sono già notevoli, importanti. Ovviamente, come dicevamo anche prima, la svolta è necessariamente digitale, perché sì, bello il lavoro da remoto, dai luoghi lontani, dalle città, ma poi bisogna essere connessi. Allora, chi investe oggi, pubblico o privato? Il Piano Nazionale per la Banda Ultralarga è in ritardo nei territori montani e rurali del paese. Poi abbiamo una serie di operatori privati, quindi le società di telecomunicazioni, che stanno investendo anche le loro risorse con scommesse imprenditoriali. Molto spesso cittadini non lo sanno che lì c'è già una buona connettività, ad esempio senza fili, fixed wireless, quindi con degli accessi su ripetitori. Infrastruttura tecnologica, digitalizzazione, vogliono dire migliori servizi. Servizi e digitalizzazione per fare cosa? Cosa ne facciamo? Quanto vale? Come siamo cambiati in questo 2020? Facciamo i conti. Questa settimana con il direttore dell'Osservatorio Digital Content del Politecnico di Milano, Samuele Fraternali. Grazie a voi dell'invito e buongiorno a tutti. Dalla nostra analisi emerge che la popolazione italiana ha fruito in particolar modo di contenuti di natura informativa e news, ovviamente per rimanere aggiornati. In seconda battuta, contenuti di video, sia di genere cinematografico, quindi film, serie TV, programmi televisivi, ma anche contenuti di video intrattenimento per le piattaforme. Queste due tipologie di contenuto sono state fruite digitalmente sostanzialmente da 3/4 della popolazione. A seguire i contenuti musicali. Qui abbiamo 2/3 della popolazione sostanzialmente che ha fruito di musica digitalmente durante il 2020. Come sempre, ovviamente, quando poi si parla di digitale dipende anche dall'età. Assolutamente, vero, dipende molto dall'età e rimane anche vero che le fasce più giovani preferiscono contenuti più legati al mondo del video entertainment, quindi legati ai contenuti video, legati ai contenuti musicali, legati al gaming, mentre le fasce più mature prediligono invece contenuti legati agli aspetti più di informazione e di news. Questo cambiamento però è assolutamente vero che, come dire, il divario di comportamento si sia assottigliato in questo ultimo periodo, soprattutto legato alle informazioni. Un mercato che quanto vale? Immagino in aumento. Sì, il mercato dei contenuti digitali è in aumento, è in espansione. Qua bisogna distinguere due voci, quindi quanto il consumatore italiano spende per fruire di contenuti digitali, sia di quanto invece le piattaforme di distribuzione di contenuti digitali raccolgono dalla vendita di spazi pubblicitari. Sono entrambe fino al 2019 in aumento, appunto il mondo informazioni news, il mondo musica, il mondo video e il mondo gaming. Il consumatore italiano ha speso quasi 1,8 miliardi in acquisto di contenuti digitali, sia sotto forma di abbonamento che di acquisto singolo del singolo contenuto, in crescita del 20% rispetto al 2018. Sul 2020, sicuramente la pandemia ha aumentato, come dicevamo inizialmente, il consumo da parte dei consumatori. Abbiamo osservato molte iniziative, molte piattaforme che hanno dichiarato di aver aumentato anche di conseguenza i ricavi, no, da spesa del consumatore per il numero di abbonamenti. Pensiamo che in termini di spesa il mercato del 2020 cresca. Ci sono nuove realtà che si sono avvicinate, pensiamo a Disney Plus per fare un nome nel mondo video, quindi ci sono anche, diciamo, queste tipologie di contributo. Ecco, abbiamo parlato di territori connessi o meno, grandi città o piccoli centri. Quanto pesa davvero la possibilità di connettersi? La connessione, la connettività è un elemento chiave, nel senso che abbiamo osservato che chi, ad esempio, ha una connessione in fibra ottica tende a consumare digitalmente una maggior varietà di contenuti di connessione. Sicuramente in questo mercato dei contenuti digitali il 5G potrebbe essere, ad esempio, una chiave ancora di maggior impulso, permettendo anche con lo smartphone, come detto, sta diventando il principale io per l'accesso ai contenuti. Con il 5G potrebbe addirittura essere utilizzato, perché richiedono più banda per essere fruita al meglio da parte del consumatore. Insomma, che il lockdown arricchisca la rete l'abbiamo capito, ma per noi dove poterla raggiungere cambia e di molto. Allora, alla prossima, un saluto da Anna Migliorati. In città queste cose non succedono, hai capito? E allora tornate in città. In città facciamo rapine, facciamo borseggi, facciamo trattative con lo Stato e ognuno si fa i fatti propri. E non sputare.